Video game. Nuovo appuntamento dedicato al mondo dei videogiochi. Come sempre iniziamo la puntata con la soluzione del gioco che vi riguarda e che vi fa portare a casa un buono da 300 euro. Ecco le risposte della settimana scorsa. Livello 1. Lo si rende per focaccia. La risposta era Pan. Livello 2. Famoso è quello di Bard. La risposta era Forte. Mettendo insieme le due parole si ottiene Panforte. Il mostro di fine livello chiedeva: mostro di fine livello. Fra i suoi ingredienti è quello che gli dà carattere. La risposta era zenzero. Anche pepe o noce moscata sarebbero andati bene, però complimenti a Silvia della provincia di Milano che si porta a casa un buono da 300 euro. E veniamo ora al gioco di questa settimana e come sempre dovete risolvere i due livelli per sconfiggere il mostro di fine livello e avere quindi la soluzione da inviare a videogiochi@radio24.it. Per il primo che indovina c'è un buono da 300 euro da spendere in qualunque punto vendita Saturn. Livello 1. Quella bianca è affilata. 1947. L'industria cinematografica hollywoodiana è in piena salute. Los Angeles è un posto pieno di giovani donne che tentano la carriera di attrice, di uomini senza scrupoli, di gentiluomini della doppia vita e di agenti al di sopra di ogni sospetto. Benvenuti a L.A. Noire. Homicide men are the right hand of God. The people demand swift and merciless justice. Do you think you might be ready for that? L.A. Noire è un titolo atteso da molto tempo e finalmente disponibile per PlayStation 3 e Xbox. Si tratta di un vero e proprio videogioco cinematografico che vi vedrà vestire i panni di un agente della polizia di Los Angeles che, risolvendo casi sempre più complessi, proverà a far carriera, incontrando nel suo cammino amici e ovviamente molti nemici. Phelps, Earl, a shooting at the 111 Club. Half a dozen shooters, sir. Real professionals. Muovendovi in assoluta libertà in una Los Angeles completamente ricostruita al computer e fedelissima a quella del 1947, avrete il compito di svolgere indagini, raccogliere indizi, catturare malviventi e cimentarvi in interrogatori che sembrano veri. Ma prima di spiegarvi i dettagli di L.A. Noire, ecco la seconda parte del gioco che vi coinvolge e che vi dà la possibilità di portarvi a casa un buono da 300 euro. Livello 2. Il protagonista della Genesi. Torniamo a parlare di L.A. Noire. Per la realizzazione di questo titolo è stata usata una tecnologia di motion capture capace di cogliere tutte le espressioni degli attori che hanno recitato le parti. Solo osservando con molta attenzione le espressioni del viso durante le loro risposte alle vostre domande sarete in grado di capire se il testimone sta mentendo, sta dicendo la verità o se vi sta nascondendo qualcosa. Destruction of public property, harassment. Jesus Christ! You just don't get it, do you? I think I want him dead. No good place. Pick up a shovel and a pick on the way. Il titolo è straordinario da molti punti di vista, è assolutamente coinvolgente perché vi catapulterà in una storia complessa, ricca di particolari e assolutamente inaspettata, come si conviene alle sceneggiature più interessanti. Un difetto però c'è, ed è l'assenza completa del doppiaggio. Per questo gioco siamo costretti a leggere in continuazione i sottotitoli e anche chi conosce bene l'inglese non si illuda di capire facilmente ciò che viene detto. E poiché uno dei momenti più interessanti e intriganti del gioco è proprio rappresentato dall'intuire correttamente l'atteggiamento dei testimoni e dei sospettati, interpretandone le espressioni del volto, converrete con me che non è affatto semplice leggere i sottotitoli e contemporaneamente osservare le espressioni. Una grave pecca che a Rockstar, produttrice del titolo, sembra non interessare affatto, ma che per i giocatori si trasforma invece in uno sforzo continuo e poco piacevole. A parte questo, L.A. Noire è un titolo appassionante, molto ben costruito, coinvolgente e bello anche da rigiocare, perché ogni caso che risolverete potrà essere concluso in modo molto diverso in rapporto a ciò che scoprirete e alcuni aspetti della storia cambieranno a seconda delle vostre scelte. Sicuramente un titolo da non perdere. E prima di passare alla classifica dei giochi più venduti della settimana, ecco la terza parte del nostro gioco, il mostro di fine livello da sconfiggere con la risposta giusta alla domanda che sto per farvi. E chi invierà la risposta corretta per primo si porterà a casa un buono da 300 euro da spendere in qualunque punto vendita Saturn. Mostro di fine livello. Quello più grande si definisce così. La risposta a videogiochi @radio24.it. E adesso la classifica. Resistono incessantemente in classifica ancora i Pokémon White e i Pokémon Black, solo per Nintendo DS, rispettivamente al quinto e al terzo posto. Al quarto posto troviamo la simulazione calcistica più amata, FIFA 11. Nuova entrata al secondo posto per lo sparatutto in prima persona, che recensirò presto, Brink, per Xbox e PlayStation 3. Avvicinandosi l'estate, ancora al primo posto Wii Fit Plus con Balance Board, solo per Nintendo Wii. Al prossimo sabato, un saluto da Stefano Gallarini. Game over.